Ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Alla Grange il tempo passò, serenamente come una volta, finché la signorina Cati non compì 16 anni. Il giorno del suo compleanno non veniva mai festeggiato, perché era anche l'anniversario della morte della mia defunta padrona. Suo padre trascorreva invariabilmente quella giornata da solo, in biblioteca, e verso sera andava a piedi fino al cimitero di Gimmerton, dove spesso si tratteneva fino oltre mezzanotte. Perciò Catherine, per svagarsi, doveva fare affidamento solo sulle proprie risorse. Quel 20 di marzo era un bel giorno di primavera e quando suo padre si fu ritirato, la mia padroncina scese vestita per uscire e mi disse che aveva chiesto il permesso di andare con me fino ai margini della brughiera. «Perciò sbrigati, Ellen», disse. «So dove desidero andare, dove si è stabilito uno stormo di galli di brughiera. Voglio vedere se hanno già fatto il nido». Io mi misi la cuffia e partii, senza pensarci oltre. Lei mi precedeva, correndo, poi tornava al mio fianco e ripartiva come un giovane levriero. Al principio mi abbandonai al piacere di ascoltare il canto vicino e lontano delle allodole, di godermi la dolcezza e il tepore del sole, di osservare lei, il mio tesoro, la mia delizia, coi suoi riccioli d'oro che volavano sciolti sulle spalle, con le guance colorite, morbide e pure come rose selvatiche, e con gli occhi raggianti di gioia senz'ombra. Era una creatura felice e un angelo in quei giorni. È un peccato che non si sia accontentata. «Ebbene», le dissi, «dove sono i suoi galli di brughiera, signorina Cati? Dovremmo esserci. Il recinto del parco della Grange è molto lontano ormai». «Oh, ancora un po' più avanti, solo un po' più avanti, Ellen», continuava a rispondermi. «Sali fino a quel poggio, oltre quella riva, e vedrai che quando tu arrivi dall'altra parte, io avrò fatto alzare in volo gli uccelli». Ma c'erano talmente tanti poggi e rive da salire e da attraversare che alla fine cominciai a sentirmi stanca e le dissi che dovevamo fermarci e tornare indietro. Alla fine si tuffò in una conca e prima che riuscissi a vederla di nuovo era di 2 miglia più vicina a Cime Tempestose che a casa sua. Vidi che 2 persone l'avevano fermata, una delle quali ero sicura che fosse il signor Heathcliff. Catherine era stata colta nell'atto di depredare, o perlomeno di scovare nidi dei galli cedroni. La collina era terra di Heathcliff e lui stava rimproverando la cacciatrice di Frodo. «Non ne ho presi e neppure trovati», stava dicendo lei, mentre io mi affannavo verso di loro e allargò le mani per provare la sua affermazione. «Non avevo nessuna intenzione di prenderli, ma papà mi ha detto che ce n'erano molti quassù e volevo vedere le uova». Heathcliff mi gettò un'occhiata ed ebbe un sorriso malevolo, come a dire che sapeva con chi stava parlando, ed era di conseguenza mal disposto nei suoi confronti, e chiese chi fosse papà. «Il signor Linton della Grange», rispose lei. «Lo sapevo che non mi conosceva, altrimenti non mi avrebbe parlato con quel tono». «Allora lei suppone che papà goda della massima stima e del più alto rispetto?» chiese lui sarcastico. «E lei chi è?» domandò Catherine, gettando uno sguardo curioso al suo interlocutore. «Quest'uomo l'ho già visto. È suo figlio?» indicò l'altra persona. «Erton, più goffo e più rozzo che mai, al quale quei 2 anni di più non avevano apportato alcun miglioramento, se non una maggior mole e robustezza». «Signorina Cati», interruppi, «adesso sono già 3 ore che siamo fuori, invece di una. Dobbiamo proprio tornare». «No, quell'uomo non è mio figlio», rispose Heathcliff, spingendomi da parte. «Ma ne ho uno, e lei l'ha già visto prima d'ora. E anche se la sua balia ha tanta fretta, penso che a tutte e due farebbe bene riposarvi un po'. Non vuole girare dietro a quella macchia d'erica ed entrare in casa mia? Dopo una pausa, tornerete a casa più in fretta e noi saremo felici di accogliervi». Sussurrai a Catherine che non doveva per nessuna ragione accettare quella proposta. Era del tutto fuori questione. «Perché?» mi chiese ad alta voce. Sono stanca di correre e il terreno è bagnato di rugiada. Non posso sedermi qui. Andiamo, Ellen. Inoltre, lui dice che ho già visto suo figlio. Credo che si sbagli, ma immagino di sapere dove vive. Alla fattoria che visitai tornando dalle rocce di Penniston. Non lo pensi anche tu? È così, disse Heathcliff. Su, Nelly, sta zitta. Sarà un piacere per lei farci visita. Ayrton, va avanti con la ragazza. Tu cammina vicino a me, Nelly. No, lei non andrà per nulla in quel posto, gridai, dibattendomi per liberare il braccio dalla sua stretta. Ma ormai Catherine aveva quasi raggiunto la soglia di casa, a forza di saltellare a tutta velocità verso la cima. Il suo accompagnatore designato non fece nemmeno finta di scortarla. Girò lateralmente oltre il ciglio della strada e svanì. «Signor Heathcliff, è una cosa molto sbagliata», proseguì. «Lei sa meglio di me che non lo fa a fin di bene. Catherine vedrà Linton, e non appena saremo tornate tutto verrà riferito e la colpa sarà mia». «Ma io voglio che veda Linton», rispose. «In questi giorni ha un aspetto migliore. Non succede spesso che sia presentabile. Faremo in fretta a convincerla a tenere segreta questa visita. Che male c'è?» «Il male è che suo padre mi odierebbe se scoprisse che le ho permesso di entrare in questa casa. E sono sicura che lei abbia cattive intenzioni nell'incoraggiarla a farlo», replicai. «Le mie intenzioni sono onestissime. Ti metterò al corrente del mio intero progetto», disse. «E precisamente che i due cugini si innamorino e si sposino. Mi sto comportando con generosità verso il tuo padrone. La sua giovane sfacciatella non ha alcuna prospettiva, ma se farà come dico io, sarà subito sistemata. Erediterà insieme con Linton». «Se Linton morisse», risposi, «e la sua sopravvivenza è precaria, l'erede sarebbe Catherine». «No, non lo sarebbe», disse. «Non c'è alcuna clausola nel testamento che lo disponga. La proprietà di lui resterebbe a me. Ma per evitare fin dal principio ogni controversia, io desidero che si sposino e farò in modo che sia così. E io farò in modo che Catherine non si avvicini mai più alla sua casa quando ci sono io», risposi, mentre raggiungevamo il cancello dove la signorina Cathy ci aspettava. Heathcliff mi ordinò di chiudere il becco e, precedendoci lungo il sentiero, si affrettò ad aprire la porta. La mia padroncina lo guardò più volte, come se non sapesse decidere esattamente che cosa pensare di lui, ma ora, quando incontrava il suo sguardo, lui si mostrava sorridente e, quando le rivolse la parola, lo fece con tono gentile, tanto che io scioccamente immaginai che, in ricordo di sua madre, non le avrebbe fatto del male. Linton era in piedi vicino al camino. Era stato a passeggiare nei campi, come dimostrava il cappello che aveva in testa, e stava chiamando Joseph perché gli portasse delle scarpe asciutte. Per la sua età, gli mancavano alcuni mesi per compiere 16 anni, era piuttosto alto. Aveva ancora quei graziosi lineamenti e gli occhi e la carnagione erano più chiari di quanto io ricordassi, anche se brillavano di una luce solo temporanea, dovuta all'aria salubre e al sole generoso. «Allora, chi è questo?» chiese il signor Heathcliff, rivolgendosi a Cathy. «Me lo sai dire?» «Suo figlio?» disse lei, dopo aver esaminato con occhi dubbiosi prima l'uno, poi l'altro. «Sì», rispose lui, «ma non l'hai mai visto prima?» «Pensaci. Ah, che memoria corta! Linton, non ti ricordi di tua cugina? Quella con cui ci hai tanto assillati perché volevi andare a trovarla?» «Come? Linton!» esclamò Cathy, illuminandosi tutta di gioia e di sorpresa a quel nome. «Questo è il piccolo Linton, ma è più alto di me! Linton, sei tu?» Il giovane avanzò verso di lei e si presentò. Lei lo baciò con ardore e restarono a guardarsi entrambi stupiti di ritrovarsi tanto cambiati. Catherine aveva ormai raggiunto il suo pieno sviluppo. La sua figura era piena e snella allo stesso tempo, elastica come l'acciaio, e tutto in lei sprizzava salute e buon umore. Linton aveva aspetto e gesti languidi ed era estremamente esile, ma nei suoi modi c'era una grazia che mitigava questi difetti e lo rendeva non spiacevole. Dopo che ebbe scambiato con lui numerose manifestazioni di affetto, sua cugina si avvicinò al signor Heathcliff, che indugiava sulla porta, dividendo la sua attenzione fra quello che succedeva dentro e fuori, o meglio, fingendo di osservare fuori, ma tenendo d'occhio quanto avveniva dentro. «E tu sei mio zio!» esclamò lei, alzandosi in punta di piedi per baciarlo. «L'ho pensato che mi piacevi, anche se in principio eri arrabbiato. Ma perché non vieni a trovarci alla Grange con Linton? È strano vivere per tutti questi anni così vicini e non vederci mai. Per quale motivo?» «Sono venuto a trovarvi un paio di volte di troppo prima che tu nascessi», rispose. «Io... basta, dannazione. Se hai dei baci d'avanzo, dagli a Linton. Con me sono buttati via». «Ellen, cattiva!» esclamò Catherine, gettandosi allora su di me e prodigandomi le sue carezze. «Cattiva di un Ellen! Cercare di impedirmi di entrare. Ma d'ora in poi farò questa passeggiata ogni mattina. Posso, zio? E qualche volta porterò anche papà. Non ti farà piacere vederci?» «Ma certo!» rispose lo zio, trattenendo a stento una smorfia di profonda avversione verso i due visitatori che gli venivano proposti. «No, aspetta», continuò, «ora che ci penso, è meglio che te lo dica. Il signor Linton è prevenuto nei miei confronti. C'è stato un momento nella nostra vita in cui abbiamo litigato con una ferocia assai poco cristiana. E se tu gli dici che vieni qui, metterà un veto alle tue visite. Perciò non devi farglielo sapere, a meno che non ti importi nulla di non vedere mai più tuo cugino». «Perché avete litigato?» domandò Catherine, alquanto abbattuta. «Pensava che fossi troppo povero per sposare sua sorella», rispose Heathcliff, «e il nostro matrimonio è stato un colpo per lui. Il suo orgoglio è stato ferito e non me lo perdonerà mai». «Ma questo è sbagliato», disse la signorina. «Un giorno o l'altro glielo dirò. Ma Linton e io non c'entriamo nulla col vostro litigio. Comunque, io non verrò qui. Sarà lui a venire alla Grange». «È troppo lontano per me», mormorò suo cugino. «Camminare 4 miglia mi ucciderebbe». «No, vieni qui tu, signorina Catherine. Vieni ogni tanto, non tutte le mattine, ma una volta o due la settimana». Il padre lanciò al figlio un'occhiata di profondo disprezzo. «Ho paura, Nelly, che le mie fatiche andranno a vuoto», brontolò. «La signorina Catherine, come la chiama quello sciocco, scoprirà quanto poco vale e lo manderà al diavolo. Ah, se fosse stato Ayrton! Lo sai che 20 volte al giorno vorrei che fosse Ayrton mio figlio, con tutta la sua degradazione. Avrei voluto bene a quel ragazzo, se fosse stato qualcun altro. Ma non credo che corra il rischio di piacere a lei. Lo farò scendere in campo contro quella nullità, se Linton non si decide a darsi da fare con un po' di energia. Secondo i nostri calcoli, è improbabile che duri fino a 18 anni. Maledizione a quella creatura insignificante. È tutto intento ad asciugarsi i piedi e non la guarda neppure. Linton!» «Sì, papà», rispose il ragazzo. «Non hai niente da mostrare a tua cugina da qualche parte qui intorno? Neanche un coniglio o un nido di donnola? Portala in giardino prima di cambiarti le scarpe e nella stalla a vedere il tuo cavallo. Non preferiresti sederti qui?» chiese Linton, rivolgendosi a Cathy in un tono che esprimeva la sua riluttanza a spostarsi da lì. «Non lo so», rispose lei, gettando uno sguardo di desiderio verso la porta, evidentemente ansiosa di muoversi. Lui rimase seduto e si accostò ancora di più al fuoco. Heathcliff si alzò, andò in cucina e da lì nel cortile, chiamando ad alta voce Ayrton. Ayrton rispose e poco dopo i due rientrarono. Il giovane si era appena lavato, come si poteva vedere dalle sue guance rosse e dai capelli umidi. «Oh, lo chiederò a te, zio!» esclamò la signorina Cati, ricordando l'affermazione della governante. «Questo non è mio cugino, vero?» «Sì», rispose lui. «È il nipote di tua madre. Non ti piace?» Catherine lo guardò con sospetto. «Non è un bel ragazzo?» continuò lui. Quella piccola incivile si alzò in punta di piedi e sussurrò qualcosa all'orecchio di Heathcliff. Lui rise. Ayrton si incupì. Mi accorsi che era molto sensibile a ogni presunto sgarbo e aveva evidentemente una certa percezione della propria inferiorità. Ma il suo padrone guardiano spianò il suo cipiglio esclamando: «Sei il preferito fra noi, Ayrton. Dice che sei un... com'era? Beh, qualcosa di molto lusinghiero. Su, vai a fare un giro con lei attorno alla fattoria e comportati da gentiluomo, bada. Non usare parolacce e non fissarla quando la signorina non ti guarda, per poi nascondere in fretta la faccia quando lo fa. E quando parli, non mangiarti le parole e tieni le mani fuori dalle tasche. Va ora e cerca di farla divertire meglio che puoi». Restammo fino al pomeriggio, perché non riuscì a smuovere prima la signorina Cati. Per fortuna il padrone non si era mosso dalla biblioteca e non si accorse della nostra prolungata assenza. Sulla strada del ritorno avrei tanto voluto illuminare Catherine sul carattere delle persone che avevamo appena lasciato, ma lei si era messa in testa che i miei non erano altro che pregiudizi contro di loro. «Papà!» esclamò dopo averlo salutato come ogni mattina. «Indovina chi ho visto ieri mentre passeggiavo nella brughiera?» Raccontò dettagliatamente la sua gita e tutto quello che era successo. Il padrone si limitò a lanciarmi qualche occhiata di rimprovero, ma non disse nulla finché lei non ebbe finito. Poi l'avvicinò a sé e le chiese se sapeva perché lui le aveva nascosto che Linton abitava vicino. «L'hai fatto perché detesti il signor Heathcliff», rispose lei. «Allora tu credi che io antepongo i miei sentimenti ai tuoi, Cati?» disse lui. «No, non è perché detesto il signor Heathcliff, ma perché lui detesta me, ed è un uomo diabolico, che si diverte a fare del male e a rovinare quelli che odia». «Ma il signor Heathcliff mi ha accolta cordialmente, papà», osservò Catherine, niente affatto convinta. «E non ha sollevato obiezioni, lui. Ha detto che potevamo vederci e che io potevo andare a casa sua quando volevo, solo che non dovevo dirtelo, perché tu avevi litigato con lui e non lo hai mai perdonato di aver sposato la zia Isabella. Ed è così, infatti, la colpa è tua. Lui almeno non ha niente in contrario all'amicizia fra me e Linton, e tu invece sì. Saprai in futuro, cara, perché desidero che tu non ti avvicini alla sua casa e alla sua famiglia. Ora torna alle tue occupazioni, ai tuoi divertimenti, e non pensarci più». Catherine gli diede un bacio, poi se ne rimase tranquilla sui suoi libri per un paio d'ore, come al solito. Quindi lo accompagnò nel parco e la giornata passò come di consueto. Ma la sera, quando si fu ritirata in camera e io la raggiunsi per aiutarla a svestirsi, la trovai che piangeva, in ginocchio davanti al letto. «Non sto piangendo per me, Ellen», rispose, «ma per lui. Si aspettava di rivedermi domani e sarà così deluso. Lui mi aspetterà e io non arriverò. Posso scrivergli un biglietto per spiegargli perché non mi è possibile andare?» «Silenzio», l'interruppi io. «Non voglio sentir parlare di bigliettini. E ora vado a letto». Questa era dunque la 16ª puntata di Cime Tempestose di Emily Bronte, nella traduzione di Margherita Giacobino, letta da Anna Maria Guarnieri per D'Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi, per la regia di Jonathan Zenti, da riascoltare su raiplayradio.it. Prendiamo congedo da Summersit, l'album di questo pomeriggio. I Wilco ne sono gli interpreti e gli autori. I Wilco spesso accusati, per così dire, di troppe citazioni musicali. Ebbene, ecco quello che dice Tweedy a proposito di questo. Tutto ha origine da qualche parte, sapete? Volevo un po' che sembrasse come se stessimo suonando la nostra collezione di dischi, come se una band amatoriale che setaccia la propria collezione e la saccheggia e se la spassa facendolo. My darling.